America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo molte cose in movimento. Oggi abbiamo la Federal Reserve che si riunirà di nuovo per decidere che tipo di politica monetaria perseguire, soprattutto per decidere se chiuderà o se rallenterà le sue manovre di acquisto di obbligazioni, di titoli del tesoro sul mercato. Abbiamo i postumi dell'attacco di ieri, si cerca ancora di capire esattamente che cosa è successo a Washington quando questo squilibrato ha sparato sulla folla nel cantiere navale proprio lì nel cuore della capitale americana. Continua il dibattito sulla Siria, insomma molti fronti aperti, ma ieri se n'è aperto un altro. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, perché sto tão sozinho. Ecco, è un fronte nuovo che si apre per l'America, la ragazza di Ipanema, il Brasile. Bene, che è successo? È successo che la signora Rousseff, che era stata invitata con tutti gli onori per una visita di Stato a Washington, con una cena di Stato per il 23 di ottobre, un evento al quale la Casa Bianca stava lavorando da mesi perché doveva diventare il trampolino per mostrare quanto fossero migliorate le relazioni fra Brasile e Stati Uniti, quanto vicino fosse il norte, il vicino del nord, gli americani, e il sud, il Sud America, anche da un punto di vista di avvicinamento economico. Ebbene, la signora Rousseff ha cancellato la visita, ha ringraziato Obama, ma ha detto che di fatto non si può fidare dell'America, perché l'America con queste sue operazioni di spionaggio le ha creato molte difficoltà. Si è scoperto che la NSA, la National Security Agency, aveva ascoltato conversazioni della Rousseff con alcuni dei suoi collaboratori. Sembra che avesse spiato le telefonate del capo della Petrobras, che è la compagnia petrolifera brasiliana, e dunque insomma per la signora Rousseff questo non andava bene, e dunque ha voluto dare un segnale forte, anzi devo dire fortissimo. Today, Secretary Clinton joined an international coalition of our European and Arab partners in Paris to discuss how we will enforce UN Security Council Resolution 1973. Our consensus was strong and our resolve is clear. Barack Obama in Brasile. Beh, Barack Obama invece in Brasile ci è andato, era il marzo del 2011, lo abbiamo seguito in questo suo viaggio, e avete sentito che il presidente allora menzionava la questione della risoluzione 1973, cioè la risoluzione contro la Libia, perché proprio in quei giorni si preparava l'attacco contro la Libia. Con me ai microfoni di America 24 Maurizio Molinari, corrispondente dalla Stampa, inviato, eravamo insieme in quel viaggio. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Allora Maurizio, ti ricordi, devo dire è stato un viaggio molto particolare, perché ti ricorderai che a un certo punto hanno chiuso le porte, si sono aperti i microfoni, ci hanno detto che vuole restare resti, però deve sapere che resterà chiuso qua per svariate ore, perché stiamo per darvi delle informazioni molto delicate, ed eravamo a Brasilia. E le informazioni quali erano? Erano i piani di attacco che sarebbe partito da lì a poche ore degli Stati Uniti e degli alleati contro la Libia. Maurizio, te lo ricordi quel momento? Abbastanza. Me lo ricordo benissimo, eravamo in quella stanza, nell'albergo di Brasilia, dove c'era la sala stampa della Casa Bianca, ci ordinarono di non dire assolutamente niente a nessuno, perché praticamente lo dissero prima a noi di quando in realtà il Pentagono lanciò l'attacco. Ecco, allora, in quel viaggio, devo dire, mi colpì molto il piglio della signora Rousseff. Devo dire, per un momento ho pensato, ma ne avessimo noi di politici, di governanti, con una grinta, con una determinazione come la sua, chissà, forse anche l'Italia starebbe un po' meglio. Secondo te, non ha forse esagerato la signora a cancellare addirittura una visita di Stato? Non so chi altro l'avrebbe fatto. Io ho il tuo stesso ricordo. Durante la conferenza stampa a Brasilia, nella sede della Presidenza, la Rousseff trattò malissimo Obama. Parlò a lungo, lo guardò negli occhi, gli diede poco spazio. Un piglio e quasi una presunzione politica che mi impressionarono molto e ci fecero riflettere. Ricordo che ne parlammo anche con alcuni colleghi americani, questa cosa che il Brasile si sente un po' la Francia dell'America meridionale, cioè la grande potenza regionale, e in questo caso secondo me prendendo spunto da Snowden, che obiettivamente ha creato grande imbarazzo per via delle sue rivelazioni, sta giocando una partita molto pericolosa che mette in bilico le relazioni con il grande alleato americano. Quindi sei d'accordo che forse è una reazione un po' eccessiva? Voglio dire, a un certo punto occorre essere persone tra virgolette di mondo, cioè si sa che le spie fanno questo di mestiere, inutile confondere quella con attività di spionaggio con quella che può essere una relazione istituzionale fra paesi e soprattutto fra l'America e il Brasile. Mi ha colpito perché adesso si dice che forse cancelleranno quest'ordine di 36 caccia F-18 dalla Boeing, 4 miliardi di dollari, ci sono conseguenze economiche, e si dice che si andrà a verificare se i contratti petroliferi, tu sai che al largo del Brasile ci sono enormi giacimenti petroliferi, le compagnie petrolifere americane hanno concorso per alcune trivellazioni, se per caso non sono state avvantaggiati nelle gare da queste informazioni. Ecco, mi ha colpito la frase di un funzionario brasiliano, ha detto: beh, noi non possiamo comprare delle armi strategiche da un paese di cui non ci fidiamo. Maurizio, ti chiedo, se siamo arrivati al punto in cui dal Brasile, sicuramente un'importante potenza economica in crescita, viene un messaggio che non ci si può fidare degli Stati Uniti, beh, non c'è qualche cosa di sbagliato? Anzitutto io concordo con te che probabilmente il passo del Brasile è stato eccessivo, se non altro perché pochi giorni fa la Presidenta brasiliana aveva mandato alla Casa Bianca il suo consigliere per la sicurezza, si era seduto per 2 ore con Susan Rice, al termine era stato diffuso un comunicato congiunto che sembrava aver creato una nuova atmosfera di cooperazione, e quindi di fatto, insomma, lei ha proprio voluto fare lo strappo. La mia impressione è che in realtà in questo momento il Brasile è in difficoltà economica per via del rallentamento della Cina, che ha sostenuto di fatto gli acquisti di materie prime in Brasile negli ultimi anni, e quindi la crescita del Brasile, il Brasile sta rallentando, c'è grande scontento interno, e non vorrei che la signora Dilma stesse giocando questa carta solita e tradizionale dell'antiamericanismo per fare fronte a un problema di popolarità interna che sicuramente è destinata a crescere, perché la crescita del Brasile sta davvero rallentando. Ecco, però voglio dire, c'è una coincidenza strana, perché questa guerra fredda fra Brasile e Stati Uniti comincia nel momento in cui sembra invece così scongelarsi un pochino la guerra fredda fra Mosca e Washington, ma è il Brasile che la vuole fare da protagonista? Non creerà qualche problema quando si dovrà decidere se dare un seggio permanente in Consiglio di Sicurezza dell'ONU al Brasile? Cioè, ci si rende conto che alcuni di questi paesi che aspirano a questo seggio poi magari non sono così affidabili? Non c'è dubbio che il Brasile aveva incassato dall'amministrazione Bush un sostegno aperto alla sua candidatura al seggio permanente assieme all'India e al Giappone, che l'amministrazione Obama di fatto non gli ha rinnovato, e quindi potrebbe anche essere questo uno dei tanti motivi di scontento. Sono però d'accordo con te sul richiamo alla Russia. Al G20 di San Pietroburgo, dove siamo stati assieme, ti ricorderai, Mario, che c'è stata una riunione fra Putin e i leader dei BRICS, delle economie emergenti, assieme quindi anche al brasiliano. Alla fine hanno fatto un comunicato congiunto dei toni molto anti-americani, dove hanno imputato all'America l'intenzione di intervenire in Siria perché ciò avrebbe nuociuto alla ripresa dell'economia globale. Il Brasile diede manforte a Putin, quindi non vorrei appunto che ci fosse questo nuovo vento anti-americano che in Sud America tenta un po' di seguire quelle che in questo momento sono le posizioni più avanzate della Russia di Putin. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!